iniziamo con l'anno scolastico, quindi oggi è come un rientro dalle vacanze, fa piacere ritrovare i nostri utenti e di vederli belli, pimpanti. Abbiamo preparato per voi un programma intensissimo, quindi tutti i lunedì e giovedì succederà qualcosa in questa biblioteca, poi abbiamo alzato il tiro perché anche il martedì ci sarà il caffè delle lingue a partire da domani alle ore 18. In tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano per gli extracomunitari. Poi abbiamo con il primo di ottobre, riprendiamo, visto il successo che c'è stato, questi incontri del mercoledì alle ore 17 e del venerdì alle ore 15 con preiscrizione, tutto gratuito, ma vi chiediamo di preiscrivervi per avere un po' un'idea dei numeri, delle persone a cui dobbiamo rivolgerci. E appunto il corso di come utilizzare lo smartphone, l'iPod, l'iPad, l'iPhone e utilizzare le risorse della biblioteca o delle biblioteche, insomma tutto quello che ci può offrire per la nostra conoscenza, la nostra crescita internet. Iniziamo oggi con Gianni Bodini, che ringrazio tantissimo di essere venuto qui in questa biblioteca che porta appunto il nome di Claudia Augusta, un nome scelto scientemente, consapevolmente, tanti anni fa, quando è stata fondata, e perché volevamo dare proprio l'idea di una via, di un percorso, di un legame che si snoda appunto dall'Adriatico fino alle pianure danubiane. Questa era la nostra intenzione, che ci porteremo dietro poi nel polo bibliotecario, e quindi sono particolarmente contenta. Abbiamo molti libri di Gianni Bodini, una persona conosciuta, apprezzata per la sua produzione, per la sua competenza. Le fotografie sono bellissime e speriamo che sia il primo di tanti appuntamenti qui con noi. Ecco, finisco così, lascio subito la parola al nostro ospite e vi ringrazio ancora. Beh, ho sentito che oggi è il primo giorno di scuola e quindi spero di non far brutta figura proprio come primo scolaro. Il tema di questa sera appunto è la via Claudia Augusta, ma non dal punto di vista archeologico. Do una breve introduzione a come è nata questo numero di questa rivista che appunto porta il nome via Claudia Augusta. Circa due anni fa ho sentito che il comune di Lagundo, che è nei pressi di Merano, aveva intenzione di fare, in occasione del 2014, una serie di manifestazioni culturali dedicate a questa via. Perché il 2014? Perché, come forse molti di voi sanno, il 19 agosto dell'anno 14 morì appunto il Kaiser, l'imperatore Augusto. Detto il padre di questa via, chiaramente non è stato l'unico costruttore, ma diciamo è quello che è passato alla storia come il padre della via. Quindi ho proposto al comune di Lagundo, come diceva proprio lei, io fotografo volentieri, quindi quello che posso fare abbastanza bene sono le fotografie, ho detto tra le varie manifestazioni, perché non facciamo una mostra fotografica itinerante che illustri i paesaggi che ancora oggi si possono godere lungo la via Claudia Augusta. Paesaggi che partono appunto dalla Laguna Veneta, adesso qui ho messo una cartina piuttosto schematica, comunque si vede Venezia, Altino, la Sugana, naturalmente la Valle dell'Adige, il Passo di Rese, via via per arrivare su fino al Danubio. E quindi mi sono messo per strada, il comune di Lagundo ha finanziato questo progetto, quindi perlomeno le spese di viaggio erano coperte, non avevo questo grande rischio, mi sono messo in viaggio in diversi periodi dell'anno e voi, come potete immaginare, fai 200-300 km, poi arrivi lì, neve della Madonna, non ci vedi niente, torni a casa, pazienza, poi riparti un'altra volta, quindi non è che le immagini si realizzano in un colpo solo, bisogna andare, ritornare, aspettare. Fotografare vuol dire aspettare, avere pazienza. Ecco, i giapponesi non aspettano, lo scattano 2000 immagini in una settimana d'Europa e finisce lì. E io ho un'altra concezione. Per di più, il progetto è nato, potete immaginare, quando vi danno la possibilità di fare una mostra, devi darti dei limiti te stesso, cioè quante fotografie vuoi esporre. E allora, come vedete anche benissimo, sono della vecchia scuola io, non sono un ultimo dei rampolli. E allora ho detto, facciamo come se... Vi ricordate una volta, voi lo ricorderete molto bene, si facevano 36 fotografie con un rullino. E allora mi sono messo in testa, mi sono dato io un limite stesso. Il viaggio deve essere raccontato in 36 immagini, chiuso. E quindi bisogna concentrarsi. concentrare al massimo, perché chiaramente le tentazioni sono tantissime, i paesaggi sono diversi, variati, eccetera, eccetera, però in 36 immagini doveva starci tutto. E ci sono riuscito, perché chiaramente quando si impone dei limiti da sé, insomma, non è così difficile poi passare il limite. Alla fine di questa interessante esperienza, mi sembrava riduttivo dire: beh, adesso ho fatto le 36 immagini, le ho fatte in grandi su dei pannelli che appunto la mostra è in viaggio. Siamo partiti in aprile a Venezia e ogni 3 settimane circa cambio località, sempre lungo la via Claudia Augusta. In questo momento, voi vedete qui Venezia, abbiamo fatto una mostra a Feltre, poi abbiamo fatto una a Civezzano, una a San Michele all'Adige, una a Mondo, chiaramente, che è lo sponsor, una a Malles, poi siamo finita a IMSS e adesso siamo a Fiusen in Baviera. Quindi ho ancora 2 tappe da fare, una fra 2 settimane e poi a ottobre, fino a ottobre sarò sulle rive del Danubio. Ma mi sembrava comunque, anche se per me è un'esperienza interessantissima, come vedete anche stasera, non so mai quello che mi aspetta. Ti presenti in una nuova sala, nuovi personaggi, nuove situazioni, altre lingue chiaramente, in Tirolo e Baviera, e vediamo cosa succede. Cioè io sono sempre aperto, vediamo come va a finire. E nonostante tutto mi sembrava riduttiva la cosa, e allora ho detto: ma già che sono in giro, chiacchiero volentieri, ascolto volentieri, ho cominciato a raccogliere racconti di persone che mi raccontavano qualcosa che forse in qualche modo avesse a che fare con la via Claudia Augusta. Quindi ho raccolto questi racconti, diciamo, e alla fine è venuto fuori questo numero monografico della Ronda, appunto, che non è da prendere come una guida alla via Claudia Augusta. Chi si aspetta qualcosa del genere resterebbe deluso. Questo è un libro di letture. La prima parte in qualche modo ripropone le immagini della mostra fotografica, chiaramente in formato ridotto, e la seconda parte è come una specie di diario di viaggio delle cose più interessanti che strada facendo ho incontrato, e molto spesso ho lasciato gli interlocutori stessi mi hanno scritto loro il testo, chiaramente il tutto in italiano e in tedesco, anche perché un progetto come questo sarebbe assurdo formularlo in una lingua sola. Allora adesso molto brevemente, chiaramente non voglio tirarla per le lunghe, ma cerco di stuzzicarvi, non tanto per comprare il libro meno, ma per stuzzicarvi a vedere la via come qualcosa di più di una semplice traccia, ormai è quasi sparita dalla via romana, ci sono pochissimi resti, bisogna dire, però è rimasta la memoria, e questa memoria che va molto bene al di là del selciato, perché c'è la microtoponomastica che ha a che fare con i romani, ci sono delle tradizioni legate all'arrivo dei romani, o viceversa, i romani hanno portato qualcosa naturalmente dai Celti o dalla Germania. Quindi mi sono fatto, diciamo, una breve lista, non tanto perché non conosco bene il tema, ma per non perdermi delle cose, e partiamo da Altino. Vedete, una storia che mi ha molto affascinato. Altino è un piccolo paese, un borgo a 10 km da Venezia. Potremmo dire che Venezia è la figlia legittima di Altino, cioè prima di Venezia c'era Altino, Altinum, ed era già per i romani un importantissimo porto marittimo. Quindi i romani arrivavano molto probabilmente dall'Adriatico, risalivano fino alla laguna Veneta, lì scaricarono le merci, o il militare quello saltato la linea, e poi proseguivano il viaggio naturalmente per il nord. E parlando con un signore appunto veneziano mi dice: ah, da Altino, ma tu sai che a Venezia certi mattoni che sono ancora, vengono riciclati nelle più antiche case veneziane, si chiamano altinelle. Cioè pensate, cioè a Venezia troviamo le radici di Altino, e quindi la cosa mi aveva già stupito, ma dico, quindi Venezia, insomma, è la porta dell'Oriente, ha a che fare con l'antica Altinum romana, che poi intorno al IV secolo, voi sapete, invasione barbarica, che viene abbandonata. Gli abitanti di Altino, che erano sulla costa, si ritirano sulle isole della laguna per essere un po' più protetti. Chiaramente dopo le grandi distruzioni dei barbari, cosa fanno? Tornano a recuperare quello che possono delle loro case distrutte, e l'unica cosa che resta sono i mattoni. Voi sapete, la laguna non ci sono pietre come qui da noi, c'è molto fango, c'è argilla, però mancava il combustibile per bruciare, per cuocere i mattoni. Quindi sono andati a recuperare i resti dei vecchi muri di Altino, e su questo hanno fondato Venezia. Ecco, questo per dire una delle curiosità contenute in questo mio diario di viaggio. Questo è Altino. Se poi proseguiamo, non le cito chiaramente tutte, arriviamo ai pressi di Feltre. Feltre conoscete tutti, una bellissima città arroccata su un monte, il Monte delle Capre, tra l'altro, anche quella antica colonia romana. restando nell'ambito dei paesaggi, risalgono dalla laguna, quindi arrivano da un ambiente, potremmo quasi dire, al limite tra acqua, cielo e terra, c'è tutto in questa laguna, ma non ci sono le montagne. Di colpo a Feltre già appare proprio molto forte la presenza delle montagne, e quindi deve aver affascinato, perlomeno incuriosito, anche questi romani, che vedevano qualcosa di completamente nuovo. E nei pressi di Cesio, come saprete, è stato trovato uno dei due, delle due pietre miliari della via Claudio Augusta. Una è stata trovata proprio a Feltre e l'altra era là nei pressi di Merano, possiamo dire. Sono le uniche due testimonianze precise che testimoniano di questa via, fra l'altro si parla molto bene di chi l'ha costruita, in che anno, e si può in qualche modo ricostruire la lunghezza. Si parla di 350 miglia romane, quindi circa 560-580 chilometri. Quindi con queste due indicazioni molto ben precise si può ricostruire in parte il percorso, ma, e questo è il bello dell'archeologia e della storia, sarebbe troppo facile se ci fossero sempre risposte precise. Qui resta un po' di confusione, perché una pietra miliare cita come punto di partenza Altinum, quindi proprio Altino dei Romani, e l'altra invece cita Padum, il fiume Po. Ora voi sapete che chiaramente dovevamo forse prendere alla lettera la cosa, però ci dà, probabilmente c'erano due vie, o anche più vie, naturalmente. Una risaliva dalla valle dell'Adige, proseguendo poi da Verona verso Mantova, Ostiglia, e dalle rive del Po, la seconda vena proprio dice dal Padum a Danubio. Quindi questi due fiumi sono i due punti di collegamento. Ora vai a capire se è un'indicazione che era precisa da qui partivo, oppure tra le varie opzioni c'era anche questa. Non vedete che non ci fossero altre pietre miliari, fino ad oggi non sono state ritrovate. Una sarebbe stata ritrovata nel 1848 a Porris, vicino Lasa, però purtroppo, da quello che sappiamo, chi la ritrovò forse non capì esattamente il valore della pietra, e là, come spesso succedeva, le ha rielaborata trasmutandola in una pietra tombale. Quindi ha cancellato la legge scritta romana, sostituendola con la persona alla quale era dedicata questa lapide. Quindi purtroppo sappiamo che è romana, ma non sappiamo più il contenuto. Quindi anche questa è una cosa abbastanza curiosa. Se saliamo ancora oltre, arriviamo a Lagundo appunto nei pressi di Merano, e per anni o per decenni Lagundo si è sempre un po' fatto bello con la pelle del leone, diciamo, sempre. E noi abbiamo il ponte romano, voi sapete, nei pressi di Lagundo c'è questo ponte che viene ritenuto romano. Molti studi escludono completamente la struttura romana, è una struttura probabilmente tardo medievale, forse nella quale sono state riciclate delle pietre di un antico ponte romano. Questo non si può escludere, ma il ponte non è sicuramente romano. È bello vedere anche ciò che non si ha, vedere anche un po' di fumo, è sempre un piacere, vedere dei sogni è sempre bello, dire anch'io faccio parte di questa bella storia che è la via Claudio Augusta. E quindi abbiamo Lagundo. Se risaliamo, e qui è una delle storie forse più arriviamo a Fuss, che è il primo comune bavarese, voi sapete, passate il confine, lì c'è il fiume Lè, che poi è un affluente del Danubio, e anche lì vado in giro, come sempre, sia in cerca della luce buona, come si dice, per fare delle fotografie, ma anche sempre in cerca di contatti, qualcuno che mi racconti qualcosa di particolare. E incontro un signore, più o meno della mia età, un personaggio che conosce molto bene la sua storia, insomma, come per me la Val del Nostro, io potremmo dire la mia riserva di caccia, e Fuss era la sua riserva di caccia. E mi dice, ma lei viene da Sinandro, Val del Nostro, Lasa, il marmo di Lasa, per voi tutti sicuramente è qualcosa di noto e conosciuto, là. Ma lei sa che il nostro duomo, il duomo di Fuss, tutte le statue migliori sono costruite con marmo di Lasa. Ora noi sappiamo, io tra l'altro sono nato per caso a Lasa, quindi insomma un po' di affinità con questo marmo ce l'ho. Dice, e lei sa, c'era un nostro scultore molto importante, un certo Wulff, che con dei carri e dei buoi, seguendo ancora le tracce della via antica romana, che ormai non si chiamava più via Augusta, arrivava fino a Lasa, andava a scegliersi i blocchi per lui, come faceva Michelangelo nelle cave di Carrara, poi che ne conti, e si riportava a Fuss, dove li trasformava in statue. Quindi c'è già questo bellissimo legame tra Lasa e Fuss. Ma, dice, poi c'è un'altra storia forse ancora più interessante, e questa per me è bellissima, questo lo sapete tutti, molti conventi bavaresi avevano dei vigneti proprio in Alto Adige, sentivo, proprio perché da loro climaticamente il vino allora non cresceva, adesso il clima sta cambiando, ormai era il vino quasi fino in Scozia, ma una volta non era così. E quindi venivano a prendersi il vino nei vari possedimenti che avevano, in genere nella zona intorno a Lana, Merana e così via, e poi tornavano su alle portate dei conventi, perché senza vino non si può celebrare la messa, chiaramente. Dice, però, questi edifici, a differenza degli altri, tra l'altro dei benedettini, voi sapete, i benedettini a livello europeo sono sempre stati dei personaggi particolari, tutto quello che era innovativo, i benedettini, lo champagne l'hanno inventato loro, tanto Dio i benedetti, insomma, no? Comunque, questi benedettini arrivavano, avevano un naso sopra l'ana, un naso che ancora oggi è il naso Gagers, con una chiesa dedicata a San Magno, che è lo stesso patrono di Fusion, quindi di nuovo un legame, e con questi carri, con delle botti molto grandi, scendevano giù, venivano all'ana a caricare il vino e poi li portavano su. Ma strada facendo sono resi conto, perché fare un viaggio a vuoto? Cioè, è come oggi con questi tir che viaggiano per tutta Europa e generano un carico e vuoto e l'altro pieno. E allora hanno cominciato a riempire le botti d'acqua, pensate, partivano con le botti piene d'acqua fiusse, e le riempivano di pesci vivi. E strada facendo, in tutte le locande vendevano pesci. Arrivati all'ana si caricavano l'acqua e i pesci che rimanevano, riempivano il vino e tornavano indietro. Quindi tutti e due viaggi erano positivi dal punto di vista economico. Chiaramente lasciamo intendere chissà che vino era, insomma, erano altri tempi. Lavavano bene. Sì, lavavano bene anche le botte. Capite? Che storia fantastica questa, questi qui che arrivano all'idea, strada facendo, e poi questa signora che ha consultato gli archivi, perché fino al 1700 è andato avanti questo commercio, e in modo, qui abbiamo un avvocato di fama, quindi lui sa benissimo come si possono formulare le frasi, da quello che si intende, molti pesci venivano usati come bustarelle, cioè per corrompere, esatto, perché c'era una formulazione in tedesco antico che fa intendere, diciamo, che non venivano venduti solo, ma scambiati in cambio di favori. Quindi queste carte, questi sighting e così via, servivano un po' per smirli, per ungere le ruote, no? Quindi molto interessante anche questa storia, e anche questa me la raccontate, la trovo bellissima, perché, come dico, se vedete una via da questo punto di vista, è una sorpresa infinita, non finisce mai, c'è sempre qualcosa di no, archeologicamente. Forse servivano per entrare nel convento delle monache. Si vede che la salunga. Davano il pesce. Non lo escludiamo. In ogni caso è molto bello che venga addirittura, è stato proprio riportato in documenti, quindi dice, noi partiamo con 100 kg di pesce, dei quali 30 serviranno per favori vari. Ecco. Non escludiamo anche quello delle monache. Quindi una storia molto bella. E poi arriviamo a Augsburg. Augsburg forse è la città più importante lungo tutto il percorso, anche perché è la città, tra l'altro nel 2015, quindi un altro anno, ricorre il 2000° anniversario della fondazione di Augsburg. Quindi hanno in programma, tra l'altro, molte manifestazioni che probabilmente concorrerò anch'io con la mia mostra, ma insomma, 2015, se qualcuno di voi avesse intenzione di visitare Augsburg, vale la pena, tanto perché è una bellissima città bavarese, ma perché le radici romane verranno messe in grande evidenza. Ora non lo faccio qui per sempre buttare giù gli italiani, però devo dire che i bavaresi hanno tale orgoglio di avere qualche da spartire qualcosa della loro storia che i romani lo vedono come fatto positivo, no? Altrove, per diversi motivi politici, non voglio entrare in polemiche, si cerca di cancellare il legame con la civiltà romana. Lì invece veramente un affranno ne vedremo delle belle. E pensate, qui c'è una cosa che mi ha, adesso ho fatto uno schema molto semplice, ma voi sapete, i romani, dove era possibile, quindi in montagna un po' meno, ma dove era possibile, facevano sempre lunghissimi rettilinei, cioè cercavano sempre di congiungere il punto A, B con la via più breve in assoluto. E ad Augsburg, immaginatevi la via che Augusta viene da su, attraversa il nucleo cittadino che nel frattempo, nel corso del tempo, è cresciuto, e si trova, diciamo, dopo i romani chiaramente, intorno al 1200 viene costruito il Duomo o la chiesa principale di Augsburg. Intorno al 1256 la città era talmente, voi sapete, poi tra Augsburg, una delle città commerciali più importanti d'Europa, concorreva con Venezia, basta pensare in Fugger, anche era incredibile, i legami che c'erano tra Venezia e Augsburg, formidabili, quindi delle dinastie ricchissime che finanziavano gli imperatori, come poi dopo i corsi, quindi Augsburg ha giocato un ruolo forte. In ogni caso, la città aumenta, qua sono varie case, così via, qui c'è questa grande chiesa, che però non è più sufficiente per la gente che vi ci abita. Allora viene deciso di ingrandire la chiesa. Purtroppo qui è l'entrata principale, qui non si può, per diversi motivi urbanistici non è possibile. L'unica possibilità è ingrandire la chiesa dalla parte dove c'era l'antica via Claudia Augusta. La via è vuota, si decide di semplicemente abbattere un paio di casette che c'erano dietro e la chiesa viene ingrandita. Qui naturalmente alcuni cittadini insorgono e dicono no, il territorio della strada è demaniale, pensate che faceva parte naturalmente del Sacro Romano Impero, quindi non è che uno a caso può decidere di occuparlo, non se ne parla nemmeno. Poi per di più, qualche anno dopo, lo sapete, con Martin Luther, l'asfaltum della Chiesa ai protestanti, a maggior ragione, basta darci contro la Chiesa di andare. Cosa viene fatto? Questa è una cosa incredibile, non ho mai trovata da nessuna parte. Allora, quando loro costruiscono la Chiesa, la via è costretta a fare un giro intorno alla Chiesa, chiaramente. I cittadini si oppongono, vanno fino all'ultima istanza che si può ottenere, ottengono ragione, però ormai la Chiesa è stata fatta. Allora la Chiesa deve avere due portali e permettere che la gente che voglia ancora possa attraversare la Chiesa come negli antichi tempi. Pensate, fino al 1850 questo diritto resta valido e addirittura con i carri avevano il diritto di attraversare la Chiesa, tranne, ed è scritto nello statuto, se viene celebrata una messa. In quel caso bisogna aspettare che... Ma pensate che cosa? Cioè, a cosa si arriva? Questa via romana che aveva 2000 anni viene ripristinata in qualche modo contro la volontà di chi ha costruito la Chiesa. Chiaramente vengono appoggiati, lo sapete, con la divisione della religione, insomma, tra protestanti, si dice in italiano, e cattolici, naturalmente, Augsburg diventa una città più che altro protestante. Quindi a maggior ragione ci danno contro la Chiesa, quindi se riescono a imporsi anche questo, è formidabile. Pensate che se voi andate ancora oggi a Augsburg, vedete i due portali contrapposti che permettono ancora oggi, teoricamente, anche se il diritto è stato abolito ormai, di attraversare come se la via continuasse, come se la Chiesa non esistesse. Quindi è una storia incredibile anche questa legata ad Augsburg. E poi arriviamo quasi a Bornovio, che è sulle rive del Danubio, e anche lì, tra l'altro, trovo un paesaggio molto interessante, un paesaggio anfibio come all'inizio, quindi è anche bello. Se prendiamo un po' un viaggio, è sempre un po', potremmo dire, è la vita, in fine, parte da qualche parte, prima o poi finisce. E qui partiamo dalla Laguna Veneta, quindi un paesaggio tra acqua, terra e cielo, arriviamo all'ultima tappa e siamo di nuovo lì, questo enorme Danubio che passa di lì, tra l'altro lì confluisce il Lech, che è un altro fiume molto importante, che accompagna la via per un lungo tratto, e un terzo, il Bregenz, mi pare, che finisce anche lì. Quindi questa città è circondata dalle acque e ha gli stessi problemi di Venezia. Molto spesso anche lei viene danneggiata dall'acqua alta. Solo che, e lì bisogna dire, solo che a differenza degli italiani, i tedeschi sono tedeschi, hanno già costruito una serie di paratie, un piccolo formato, è la stessa cosa che a Venezia, lo sapete, dopo è venuto quello scandalo ultimamente, ma lì hanno già realizzato questa cosa. Quando viene l'acqua alta, delle paratie automaticamente chiudono e permettono, appunto, perlomeno per un certo periodo di tempo, che la città non venga invasa dalle acque. Quindi siamo all'inizio e alla fine, troviamo di nuovo le due stesse cose che ci legano. Allora, se lo vediamo un po' simbolicamente, come un cerchio che si conclude, questo a mio avviso è qualcosa di veramente eccezionale di questa via. Ora, queste sono alcune delle curiosità che ho tirato fuori dal libro, e come vi dicevo, da aprile sono in viaggio lungo questa via e ho conosciuto veramente persone incredibili. Una delle, tra le curiosità, se parliamo di curiosità, all'ultima mostra a Malles, a Ferragosto, tra l'altro molto ben frequentata, si presenta una signora, non dico il paese comunque, della Valle Nostra, è stata battezzata Claudia Augusta. Anche questa è una curiosità, non avrei mai pensato che una persona potesse essere, ha detto mia mamma ha voluto che mi chiamasse, lei non sa neanche lei, perché la mamma purtroppo è frattempo morta, la signora stessa è anziana, dico, sarebbe stato interessante per quale motivo questa mamma, siamo nel 1920, mi pare fosse anche piuttosto anziana, le viene l'idea di battezzare la sua figliola Claudia Augusta. E quindi tra le varie curiosità, diciamo, se le curiosità sono una collana, è una perlina in più di questa collana delle curiosità. Ora, in linea di massima, io avrei finito la presentazione anche per non annoiare più di tanto. Ora, se ci fossero delle domande alle quali io posso rispondere, ben volentieri, altrimenti penso di... A me è sfuggito il nome dell'ultima città che ha citato. Donauvio. Poi un'altra cosa, quella cipo miliare che è Arabla, sì. Che è un albergo, no? Sì, quella è una copia. È una copia. L'originale... Forse i signori non sentono, lui ha chiesto l'originale del miliare romano di Rablà, non è a Rablà, sulla facciata di un albergo, lì è stata piantata dove più o meno era stata ritrovata. E qui è il Museo Civico di Bolzano. Il resto del Museo Civico. Sì, esatto, tra l'altro spezzettata in tre blocchi, anche perché l'albergo Hansfield, che riporta questa, è il luogo del ritrovamento, ma probabilmente non è il luogo in situ, cioè probabilmente per via di un una frana, la pietra è stata trasportata giù, non si sa, per quello non sappiamo neanche esattamente dove passasse la via, lì è rimasta, è affiorata da questo fango, diciamo, da questa frana, e lì è stata poi segnata, però non c'entra con quello. Ecco qua. Mi permette un attimo? Certo. Perché innanzitutto le origini proprio del nome. Della via Claudio Augusta? Sì. Si può risalire fino a dove? Allora, il signore chiede le origini del nome della via Claudio Augusta. Sono quasi sicuramente attribuibili all'imperatore Augusto. Siamo nell'anno 14 d.C. Voi sapete, prima di lui ci sono i suoi figliastri, Druso e Tiberio, che intraprendono la conquista dell'arco alpino praticamente, passando tra l'altro probabilmente fino a Bolzano, arrivano tutti e due insieme, poi si separano, uno risale molto probabilmente la via del Brennero e l'altro si sposta più a oriente e si ritrovano fuori, non lontano da Augsburg. Lì si riuniscono i due eserciti romani, in poche parole, per combattere le tribù o i tedeschi, insomma i celti per essere più precisi. E Claudio Augusto, che è il padre di questi due figli, padre adottivi, è quello che dà il nome alla via, via Augusta, Claudio Augusto. E probabilmente anche il nome Agosto, del mese di agosto, ha a che fare con Augustus, che è il mese della sua morte. Lui l'anno 14 muore il 19 di agosto, e probabilmente anche il mese che ancora oggi noi utilizziamo tranquillamente, ha a che fare con l'imperatore Augusto. Questa è un po' l'origine del nome. La Claudia forse era Claudius, non tra i vari nomi, lui Claudius Ottaviano, di Claudio era uno dei tanti nomi o prenomi che aveva, c'era anche Claudio, quindi la via essendo via è Claudia, ma che pare con Claudio volevo chiedere una cosa, le tracce venendo su lungo la valle dell'Adige, c'è a un certo punto c'è una biforcazione, sì. Cioè si va verso la Valle Nosta, almeno. Sì. E quindi come avveniva il collegamento verso la Valle Nosta? Non è stato ricostruito, ci sono solo delle ipotesi. Una fa ritenere che la via passasse dove oggi c'è Marlengo, diciamo, a piano, già da piano risaliva lì, altri invece dicono che si trovava sul versante più soleggiato, passava da Bolzano, poi Strusi. Fuso, di nuovo il compare, e poi si ricollegava nei pressi di Maia, a Merano, le due vie. Possiamo quasi con una certezza assoluta ritenere che la via non avesse un solo percorso, anche perché sarebbe assurdo se per un qualsiasi motivo, una frana o qualcosa, blocchi la via, blocchi più. Quindi c'erano sempre, come le vene, le arterie del nostro corpo sono sempre parallele, si occlude una, c'è sempre un'altra che permette al sangue, quindi al traffico di circolare. C'erano più vie, quindi... Ma non la... anche, no? Prego. Era anche palude. E allora il fondovalle era paludoso, chiaramente la via si tiene sempre a mezza costa, diciamo, per motivi di sicurezza, anche perché era impraticabile una volta il fondovalle. Io ti volevo chiedere una cosa, le tracce, che quella bellissima foto sulla prima pagina è un tratto della via. Questo, no? È un tratto originale della via. Tratto originale, sono pochissime come tracce. Sì. Okay. Questo proprio sono tra i primi metri di via romana che incontriamo, così come si vedono, ad Altino proprio. Questo è proprio di Altino originale, dove praticamente le navi approdavano, partiva la via lastricata, così trasolato. Lungo il percorso, per esempio, in Baviera, eccetera. No? Pochissimi tratti ancora, abbiamo tra l'altro, adesso le foto ci sono. Nei pressi tra Füssen e Bernbeuer, diciamo, c'è adesso un lago artificiale come quello di Resia. Voi sapete, il lago di Resia, a seconda delle stagioni, aumenta o diminuisce il livello. Quando il lago è a secco, affiora ancora la traccia della via romana. Pensate che tante persone, io sono andato lì a fotografare, vanno in bicicletta, probabilmente non si rendono conto di che stanno percorrendo una via che ha 2000 anni di storia, solo nei momenti di calo dell'acqua. Quindi lì c'è abbiamo un altro tratto abbastanza ben conservato nei pressi di Flis, tra Lande e Nauders, nel territorio nordico. Lì c'è proprio la famosa Flisa Platte, è una zona rocciosa dove hanno proprio scavato, come ha fatto il Badaosta, come ha fatto Terracini e Romani, erano incredibili allora, bisogna dire, hanno proprio scavato la traccia, lo spianato praticamente, e nel corso dei tempi le forze di passare cavi si sono formate quei solchi, quindi quelli si vedono benissimo. Altre tracce precise, rarissime, ecco, anche perché molto spesso era talmente ben scelta l'ubicazione della via, che è stata ripresa poi, cioè era talmente buona, sicura, che quando nei secoli successivi la via in parte viene abbandonata dai romani, ma poi viene ripresa dai signorotti locali, semplicemente viene ricoperta. Quindi se potessimo scavare molti tratti di vie attuali, molto probabilmente troveremo tracce della via romana. Come tracce archeologiche c'è da poco, mi pare. Pochissime. Sono rimasti soltanto in diario, sbaglio. Sì. Tracce archeologiche, come dicevo, tranne questi due o tre che ho citato, sono pochissimi. Ci sono delle citazioni, che però sono sempre piuttosto vaghe. E pensate, Strabone penso che sia per tutti il famoso storico geografo praticamente greco, che vive per un periodo di Augusto, e lui scrive questa famosa enciclopedia, se non sbaglio, in 17 volumi, racconta del mondo conosciuto di allora. E di tutta... racconta tutto il mondo, quindi molto, in modo molto sommario, e cita anche la via Claudio Augusta. Di tutto questo percorso cita solo due località che ancora oggi sono rintracciabili: Altinum, lo cita anche lui, e Damasia, che corrisponde a, una, a un insediamento nel frattempo abbandonato, però è stato riscavato in Germania, su una collina, dorme una collina, da quello che si sa è stato, tra l'altro c'è un bellissimo articolo anche su questa Damasia, che molto probabilmente è questo Bernborn. Per circa 30 anni viene occupato dai romani e poi per motivi misteriosi abbandonato completamente. Nel corso dei secoli viene ricoperto di vegetazione fino al secolo scorso, quando viene riscavato, ed è una cosa formidabile. Quello lì proprio sono, sono come si dice, tracce archeologiche precise del periodo romano. Altrimenti della via come tale c'è pochissimo. Diciamo che è una storia affascinante, ma era per esempio la stricata. Molto. Non tutta, no. Alcuni tratti lastricati, addirittura se lei pensa tra l'Hermos, diciamo sotto la Zugspitze, se avete presente dove è Baviera, vicino a Reutte, insomma il territorio austriaco, lì c'è una piana, non so come si dice in italiano, paludosa, molto paludosa. Chissà per quale motivo non decidono di aggirarla, ma attraversano direttamente con un rettilineo unico questa palude e fanno una strada che si può dire galleggiante. Cioè sono stati ritrovati perfettamente intatti dei tronchi, poi con il sistema dentro cronologico sono stati datati, risalgono al periodo romano, e quindi nel corso dei secoli, man mano che si consumano questi tronchi, vengono sovrapposti degli altri. Quindi è una strada quasi galleggiante, che poi sparisce, ma voi sapete le cose che vanno sott'acqua dove manca l'ossigeno si conservano molto bene, poi comunque hanno perso, hanno trovato dei ferri di cavallo, delle monete, eccetera, eccetera, quindi delle tracce precise. Ma se lei proprio mi parla, non so chi ha risposto alla domanda, tracce precise archeologiche della via sono veramente rare e poche, quelle che si conoscono. A Endide c'è qualche... Endide. Sì, passava da lì la strada romana. È lì, è di nuovo tra Appiano e Auer, diciamo i due contrapposti. Si presume che fossero due vie parallele, uno sul versante occidentale e uno su quello orientale. C'è chi propende che era solo dalla parte dove c'è Castelfedra, avete presente, e così via. Altri che invece dicono verso Appiano, tra l'altro anche lì è stata ritrovata quella bellissima villa romana con le terme, con i mosaici, eccetera. Quindi dappertutto un po' si trovano tracce romane. Se hanno a che fare veramente con la via Claudio Augusta è al momento ancora difficile da stabilire, ma la via come tale è meglio sapere che c'era, ma non sappiamo esattamente dove passasse. Diverse interpretazioni. Probabilmente, mi scusi, su questo lastricato ci saranno più sei sta parlando. Non riesco a... No, stava parlando il signore. Mi dica. No, il lastricato forse può anzi la voce così arriviamo a lui. Ma dicevo solo che ci sono, mi pare, diverse interpretazioni, diverse ipotesi su quale fosse il tracciato. Certo. Adesso non mi ricordo bene le zone, per esempio anche partendo dal Veneto, c'è anche la zona, non sbaglio, del Trevisano. Sì, esatto. Nel Montello, anche lì, sì. Sotto Soligo, pieve di Soligo, si presume che anche lì passasse, ma anche lì gli storici locali propendono una per una via lungo il Piave, diciamo, lei ha presente dove c'è Quero, esatto, quella zona lì, altri invece si spostano più verso la zona collinare dove oggi ci sono le vigne, quindi anche lì non è chiara e precisa, passava comunque anche lì. Verso lo Diaco, no? Ma quella è un'altra via, non è la via Claudio Augusta, no. Anche poi il Brenno naturalmente, poi dai Romani, però sono la via Iulia Augusta, eccetera, eccetera. La via Claudio Augusta probabilmente è questa. Questa del Renault? No, questa viene, no, è un'altra cosa, non c'entra con la via Claudio. Molto probabilmente la via Claudio, probabilmente. Dal passo di Reggio, sì. E poi andava in Austria. Andava giù, se lei conosce un po' la zona, da Nauders, non toccava probabilmente Landeck. Dove c'è prima di Landeck, c'è un paese che si chiama Plis. Plis, F-L-I-S-E-S-S, a Plis, lì hanno trovato proprio tracce di dice. E questo in Austria? In Austria, in Nord Tirolo, in Tirolo del Nord. Okay. E anche lì propendono che ci fossero due varianti, uno sul Pillar Sattel, che non so come tradurre, si chiama così, e quindi un valico che porta giù verso Ins, sì. Anche lì tra l'altro sicuramente centro romano, e poi da lì si dirigono verso il Ternpass. Penso che sia traduzione Ternpass. Lì hanno trovato, tra l'altro, anche lì la cosa incredibile. Pensate, oggi se qualcuno di voi conosce la zona, voi sapete giù c'è il laghetto di come si chiama, dove c'è quel castello, e poi comincia la strada che sale per arrivare su al passo, al Ternpass, e la strada attuale fa una serie di tornanti e poi scollina e va giù verso. I romani da questo stesso punto hanno tracciato una linea perfettamente retta, senza un tornante, arrivano allo stesso punto. Cioè hanno scelto sempre la via più breve, anche perché voi potete immaginarvi, in montagna dove c'è una certa pendenza, hai bisogno, immagino se il carico è pesante, di un traino a 4, 6, 8. Se ci sono delle curve diventa un problema, perché veramente quando il primo bue fa la curva, gli altri sono ancora dietro. Quindi anche da questo punto di vista erano geniali proprio. E questo signore che ho conosciuto, a quanto si è molto occupato, ha trovato le tracce in parte visibili, in parte intuibili, e proprio da, ecco, il Ternstein, se da questo punto qui sale direttamente e arriva allo stesso punto dove oggi scollina la strada, però senza fare un tornante. Incredibile cosa facevano 2000 anni fa. La pendenza c'è. Beh, la pendenza era molto superiore a quelle odierne, però chiaramente con i mezzi che avevano loro, i carri, se anche arrivavi al 15-18% potevi farlo. Oggi un'automobile 10-12% è la media massima. I carri andare su questa pendenza, sì, sì, riuscivano a portare anche le merci, le cose, tutto quanto. Addirittura ci sono dei tratti, non qui ma in Val d'Aosta, dove sono pendenze ancora superiori, e hanno fatto dei gradini in modo che man mano che il carro avanzasse, con dei blocchi facevano in modo che non potesse tornare indietro, no? C'erano dietro alcuni con dei clots, non so come si dice in italiano, sì. Sì, incredibile, arrivavano anche a 18, anche oltre il 18% di pendenza, però pian pianino riuscivano a salire, ma era sempre la via più breve. Se qui adesso non ho idea di quanti siano, se sono 8 km la via ce la fa in 4, quindi per loro è, anche perché non so se qualcuno di voi conosce la famosa transumanza delle pecore che abbiamo in Val d'Aosta, no? Voi sapete, le nostre pecore di Lasa, Corcia e Cesilando tutti gli anni più o meno da giugno attraversano il valico alpino importante verso l'Elstal e vanno giù verso Fente. Ora io stesso, 30 anni che seguo queste pecore, da Lasa a Fente sono 54 km, li facciamo in 3 giorni, però tra andata e ritorno sono 10.000 metri di dislivello. Però per le pecore, per i pastori, per chi lo vede, non è un problema. Se oggi le segue la logica del momento odierno, noi dobbiamo passare il passo di Resi, arrivare in mezzo, sono 150 km, quindi andare a piedi conviene comunque avere una pendenza superiore, ma 50 km li fai 150, vuol dire un viaggio molto più lungo. Quindi avevano quella mentalità prima che scesero gli automobili, diciamo, la via, i due punti collegati nel punto più breve possibile. Quindi dal Ternpass scendevano a Lech? Dal Ternpass si scende giù verso verso no? Aspetta che arrivo. L'Hermos, dove c'è questo famoso, come si dice, palude, questa grande palude, e da lì si proseguiva poi per Reuter, dove sopra su quella collina c'è quell'altro castello, anche lì medievale, ma molto spesso questi castelli sostituiscono delle antiche strutture romane che controllavano la strada. Adesso poi se viene qui le faccio vedere in dettaglio esattamente dove da Ternpass si scende giù di lì, e anche lì si vedono molto bene per chi ha un po' di competenza, intuisce proprio il tracciato romano, dopo 2000 anni è ancora visibile. Scusi, quanti chilometri da dove parte? Chilometri? Attualmente sono circa 560 chilometri. Dal Tino a Don Orio, al Danubio. 560 chilometri. Quindi, tra l'altro, io ho fortuna, io abito a Silandro e sono a 280 chilometri dal Tino e 280 chilometri da Don Orio. Sono proprio a metà strada. Destino, insomma. Sì. Sì, pensavo un attimo per piacere. Sul lastricato i carri romani avevano le ruote cerchiate in ferro, quindi logoravano un po' la pietra. Sì. Sono certi tratti i segni del passaggio. Sì. Come dicevo, si trovano in alcuni tratti proprio i solchi chiari ed evidenti dei carri romani e poi in seguito, perché la via chiaramente, voi sapete, intorno al V secolo d.C. l'impero romano crolla, ma la via viene comunque utilizzata, chiaramente non è più ben mantenuta come ai tempi dei romani, che era veramente una organizzazione incredibile, però i vari signori locali approfittano di questa traccia proprio per incassare dei pedaggi, quindi hanno comunque interesse di fare in modo che le merci passino ancora da loro, evidentemente. E quindi magari dove alcune pietre sono state, come lei è una certa età, vedo, come me, ma si ricorda una volta quando un cappotto non andava più bene lo si rivoltava e lo si usava, comunque oggi si butta via. Ecco, la stessa cosa loro, quando un sasso veniva un po' troppo consumato lo rovesciavano, in modo che andasse avanti ancora per un secolo o due. Quindi pensate, si trovano dei sassi che addirittura hanno cambiato due o tre volte la posizione, sono cose incredibili, no? Cioè, questa è bella. Sì, molto molto. Grazie a lei. Il nome del maso sopra l'ala esiste ancora, questo maso? Sì, il maso Gager, sì. Che ha una piccola chiesetta dedicata a San Mango, che è il patrono di Füssen, quindi un chiaro legame tra Füssen e Lana. C'è un angolo della strada. Sì, tra l'altro, lo sapete, San Mango, strano santo, come tutti i santi più antichi, è difficile sempre stabilire. Erano vere figure, sono figure mitiche, non lo sappiamo. In ogni caso, tra le varie capacità che aveva, ancora oggi si fa una processione il giorno di San Mango con il bastone di San Mango, che avrebbe la capacità di, oggi avete sentito in Val Venosta cosa abbiamo fatto, no? Questo referendum contro i pesticidi. Bene, una volta si combattevano questi insetti col bastone di San Mango, che avrebbe dovuto tenere lontano gli insetti nocivi dalle piantagioni. Quindi ancora oggi chi non crede solo nei pesticidi usa ancora la processione, poi l'efficacia non lo so. A meno male, sicuramente. Direi di sì. L'ho tirata per le lunghe abbastanza, ma sono qua. Mi dica. Ho fatto una scorsa molto veloce sul libro prima, no? È molto interessante, forse è troppo. Ho trovato che poteva forse essere di più nelle cartine, no? Nelle cartine fotografiche. Sì. E lei ovviamente incentra il suo discorso sulla strada principale. Ma come si è detto, è altrettanto importante anche il collegamento dal Po, dall'altra parte, che del fiume la Valle Garina, da Ostiglia, certo, eccetera, no? Sì. E viene avanti, quindi nella confluenza di Trento, sì. E poi lì addirittura, diciamo, sulla destra Adige, eccetera, perché poi c'era la Naunia che conclude molto, certo, avanti, sì, sì, avanti, sì, avanti con le sue. Trento stesso era un importantissimo centro romano. Ma allora mi sarebbe piaciuto che lei avesse di più, soprattutto la nostra regione. Ce n'è una anche dietro, diciamo l'archeologia ci dà ben poco questi effetti archeologici, invece abbiamo la toponomastica. Iniziamo per esempio dalla Valciugana, Torre di Marter, eccetera, Usurgum, eccetera, eccetera. Per esempio Usurgum, questo au, sono sempre paludi in definitiva, probabilmente dreta. E ricordiamo, tra parentesi, non so, Santa Maria in Augis, qui, ora au, no? Certo. E allora direi, ho visto invece che faccio un appunto molto bello lì sul convento, sull'Agostiniano lì delle visioni di San Michele all'Adige, no? Mm-hmm. Che era molto importante perché lì c'era il porto che veniva giù, l'Adige, il Noce, sì, piombava addirittura su Brumo e quindi San Michele, e lì c'era un porticciolo. Mm-hmm. Lei purtroppo mi pare, non lei, no, non le faccio un appunto, ma piccole piacere d'acqua, eccetera. E poi allora anche l'Adige dovrebbe essere fatto in qualche modo navigato, no? Perché il Bronzolo, eccetera, Borgosanto, non è che l'abbiano inventato. Comunque vorrei fare un appunto. Prendo atto dell'appunto. Ma no, non è lei, anche noi. È la seconda edizione. Non ci penso adesso, se mi lascia rispondere, poi le dico. Le faccio presente. Cioè, ci ha detto nell'introduzione, il mio scopo non era assolutamente di fare né una guida archeologica né turistica. Se lei cita un po', va a consultare la bibliografia sulla via Cadagusta, penso può riempire uno scaffale intero. E sono quasi tutti o archeologici, ma veramente molto molto specifici, una moneta, un piccola iscrizione, quindi lì è per addetti ai lavori. Oppure ci sono ultimamente, tra saranno metate, quanti chilometri, cosa c'è da vedere. Non era il mio scopo. Io ho detto, io ho cercato di fare un libro di lettura presentando solo aspetti curiosi che molto spesso non vengono citati. Quindi proprio ho escluso io, a priori, di occuparmi di archeologia o di turismo, diciamo, anche ad alto livello. Proprio la scelta era quella di punzecchiare gli interessati a avvicinarsi a un tema che molto spesso è ostico, perché solo per pochi addetti, a incuriosirli a vedere questa strada da un altro punto di vista. Quante cose hanno a che fare con la via Claudio Augusta che non sono, poi quando le ho raccontato i vari episodi, così via, molto spesso dicono: cosa ha a che fare con la via Claudio Augusta? Certo che non ha niente a che fare direttamente, ma a che fare con la storia che si è sviluppata nel corso dei secoli in questa regione attraversata dalla via. Quindi accetto ben volentieri il suo appunto, ma non era mia intenzione di fare una guida turistica. Tutto lì. Grazie. Possiamo, non so, io sono qui a disposizione se ci sono domande, altrimenti si avvicina l'ora di cena, non so. Il pezzo Prego. Di strada romana che sembra che ci sia al museo, no, al museo di Ezzi, c'è un pezzo di Ezzi, c'è un pezzo di strada romana. Dove l'hanno preso secondo lei, se lo sa? Non lo so, non ve lo so dire, no. Neanche io. E non so se via Claudio Augusta. No, c'è, perché è una forma col basolato. Sì, sì, no? Se ne trovo dappertutto, ma sì. Non so se è la via Claudio Augusta. Scusi. Prego. Di che ci sono i libri? Sì, ecco. Qui ci sono dei libri a disposizione. È possibile? Sì. Chiaramente, se qualcuno diceva appunto, ho qui ancora 5-6 copie di questo numero dedicato a via Claudio Augusta, se qualcuno lo volesse acquistare, oggi costa 20 euro invece di 28 in libreria.